canale 10, canale 10, chi era ascolto, cambio. Attenzione, canale 10, canale 10, però controllo, cambio. Ciao Marco, buonasera. Chi è? Massimiliano, interrogativo. Sì, sì, positivo, là. Buonasera, là. Giusto per un controllo, là. Per i saluti. Ciao Massimiliano, sei in condizioni di lavoro normali con l'antenna? Sì, perché? No, sono a Piazzale Segni, stavo attarando un'antenna, tutto un pasticcio è comunque. E volevo sapere come arrivavo lì. Di segnale non mi interessa la radio. 1, 2, 3, 4, 5. Santiago 5, ma scusa, Santiago 9 radio Super 5. E a cui arrivi modulato 8, però è secco il trasmettere, me ne accorgo. Molto ma molto ma molto secco. Va bene, comunque non c'è problema alcuno, dai, diciamo arrivo abbastanza agevolmente là. Non mi serve altro, Massimiliano, ti ringrazio. E qua adesso vado al primo cassonetto, Zilamputtu, Rosnet, apparato, baracchino, tanto più di tanto non si riesce a ottenere, dai. E la fase tutta allora va, già passeranno a recuperarlo qualcuno. No, sto scendo bene, da parte mia sto scendo bene. Segnale di 9, radio 5, perfetta, per me non ci stanno problemi, ok? Ti saluto con la buona serata, ciao Marco. Ciao Massimiliano, buon proseguimento di serata e alle prossime, dai, non ti ho più sentito da quasi da mesi. Oh, va bene. Ciao Massimiliano, ciao in gamba. Sì, sì, è una scelta mia, Marco, tutto qua. Sono giusto mi è entrato così perché stavo iniziando a staccarlo un po' tutto e mi sto lasciando solo la radio, là. Ma giusto per... Va bene, ok, ci sentiamo Marco, è un po' di mesi che non entro, là. Ciao Marco, alle prossime. Ciao, ciao, buona serata, ciao. Torino. Hola. Che è Giovanna? Ma che Giovanna? Alfa 21. Ciao Riccardino. Ciao Ginko. La serie è finita, so. Che cosa? Sì, le storie sono finite. Meglio così, dai. Sono tornato ieri sera e adesso ho acceso la radio per farle girare. Farle girare, sarà bravo, farle girare. Benedetta, c'è, non c'è nessuno? No, tanto adesso. Ho capito, boh, vedremo come si evolve la giornata, se entra qualcuno in radio il primo giorno dalle ferie. Sì, già entra. Benedetta. Ma già te bene le ferie, Riccardi? È tutto a posto, ad Alghero ero. Qualche antenna già l'ho vista, che ho provato a portarmi il portatile, ma penso che siamo tutti radioamatori alla fine, le nostre antenne per la CB. E comunque è tutto a posto, le ferie, al mare. Dove è in zona, no? No, zona, andavo al mare, zona Maria Pia, ad Alghero. No, andava. Te ne ascolti, Riccardi? Forte e chiaro, Santiago 910 e Radio 5. Ok, dai, andare. Va bene, va bene, va bene. Oggi un po' di freschino, si sta bene, dai. Dammi. Adesso provo a fare un giro se c'è qualcosa di propagazione, ma penso livello zero, no? Ho girato un attimo qualche canale e non ho sentito niente. No, non ce n'è propagazione, non ce n'è, Riccardi. È giornata brutta, stamattina poco ha piovuto quando sono uscito. Adesso iniziano, da settembre. Inizia un po' solo, un po' di pioggia, ci vuole, dai, ci voleva un po' di acqua. Ci voleva, intanto mi ha bruciato l'antenna e la wifi con i fulmini che ci sono stati l'altro giorno. Prima è venuto il tecnico e abbiamo dovuto cambiare il cavo, non era l'antenna, ma pensavamo, ma invece era il cavo che era andato in corto con quel temporale. Ho capito, vabbè dai. Sono cose di questo sistema. E non è un problema anche rimanere per poco senza internet. La scendita la radio va bene lo stesso. Eia, Ginko, devo lasciare che mi stanno chiamando come sempre quando entro in radio 5 secondi. E niente, ti saluto e se c'è qualcuno già entro stasera. Eia, ciao Riccardi, buona serata, buona giornata. Elia, buona continuazione anche a te e ci aggiorniamo. 73. Ciao. Marco Condor all'inizio perché c'è la voce bassa, Luci, cosa ti successo? Bravo così. Oh, adesso 1, 2, 3, prova. No, adesso ce l'ho messo. Stavi parlando basso tu. No, perché poco fa stavo dando controllo a Marco che stava controllando un'antenna. E poi ho detto che faceva la spesa, quindi ho detto penso che avrà finito. Marco Condor a chi? Sto uscendo, sì. Eia, stai uscendo, ciao Marco. Eia, ma come l'altra? Allora, l'unica cosa buona è che io adesso la... come spiegartelo? Ciao Luca. Cioè, dalla massa del PL femmina al PL che va al baracchino c'è la massa effettiva. Cioè non è interrotta come nell'altra base, che mi sembrava una cosa abbastanza lunga. Beh, la massa ci vuole, normale. E magari è fatta in un modo che io per dire la base che ho comprato, cioè questa antenna che ho comprato aveva la base attaccata già. E nella base le ho fatto il fondo perché c'era la calamita solo, senza nemmeno protezione, nulla, solo la calamita. Eia, ma a me piaceva quella Midland di base, c'è anche da 14, lo sai, perché è bella forte, più forte di quella Sirio. Quella Sirio di buona che è piatta, ultrapiatta, ma a me che sia ultrapiatta, vabbè. Luca, mi senti? Forte e chiaro, sì, sto usando un computer. Ehi, Alu, ma quell'antenna era per te o per quell'altra persona? Entrambi. Ehi, Lu, siccome io l'ho tolta perché devo rifare il cavo, devo rifare tutto, se tu la volessi provare prima di acquistarla, perché magari messa in alto non rende oppure prendi colpi dalle emittenti FM, dai cellulari, cioè non ti conviene fare la spesa. Se tu la vuoi provare è lì, già lo sai. Vabbè, non tanto per me, comunque per altra persona. Vabbè, ma l'ho notato che rende come antenna. Sì, però Lu, cosa rende? Ce l'ho in strada, cioè all'altezza stradale. Sul tetto bisogna vedere. Poi ricordati cosa ti ho spiegato, no, dei Baofeng. Che in determinate condizioni prendono veri colpi e ti spariscono tutti i segnali medio-bassi, proprio ti spariscono, non li ricevi. Vediamo là. Vedi in muso, avanti già. A chi ancora con si boffa e ti senti lui? Entrate qua che ripopoliamo la frequenza. No, già, anzi ho tolto anche l'antenna dalla finestra, quella bianca con i tre radialini, te la ricordi? La Nagoya 350, non... per ricevere la usavo me, per ricevere, no, tutta non mi so spiegare, dai. Vabbè, riprendete che io sono ai fornelli, belli bè. A fare ascolto, capito. Io comunque mi sono pentito di questa che ho comprato di antenna. Avrei risparmiato i soldi se mi avessi tenuto quella che ho io, arriva quasi con lo stesso segnale, già le notate, come? Arriva quasi con lo stesso segnale, anzi adesso che l'ho accorciata, ragazzi, rimbatterà di meno. Invece tu l'altro giorno stavi usando un antennino, quello del portatile emergenza? Sì, mi è parso di capire così. Ho usato tutti e due, prima ci ho chiesto segnale con uno e poi segnale con quella nuova che avevo comprato. Siccome quella lì da quando me l'hanno data era due di stazionari, non sono riuscito a scendere. Prima sono sceso a 1 e 1, mi sono seduto in macchina, ripremo la portante e di nuovo a 2. Ho preso, ho controllato il cavo, l'ho allargato e è sceso un po', però meno di 1 e 8, roba così non scendeva. Eia. Sì, mezzo Santiago la differenza tra l'una e l'altra che avevi provato. Guarda che è un bemmi, cioè tu dicevi ma come mai l'incremento è così poco? Mezzo Santiago sono 3 dB, 3 decibel mi sono un bel, cioè non bisogna pensare che ci siano differenze abissali di 2-3 Santiaghi. Le differenze sono da mezzo Santiago, poco più di mezzo, meno di mezzo, dipende dall'antenna, poi conta una cosa già anche, quelle antenne lì emergenza, tipo quella del Maxcom, hanno quel filo RG 213 sottile che darà già perdita di suo, già perdita, è un filettino, vabbè, finché se ne usano 2-3 metri in 27 è accettabile, su altre frequenze è molto meno accettabile, da un bel di perdita. E io ci sono andato attorno per non avere l'antenna grande, ma se mi prendevo la Turbo 2001 facevo un affare, almeno con quella sai che esci bene, buonanotte. E stazionare l'altra, quando ho comprato l'altra ce l'aveva uno, si muoveva appena appena lago, nemmeno 1,1 era, in tutti i canali, anche nei canali alti. Dai, sono i fornelli, Luca riprendi pure, vai. E io sono qua, sto sistemando un PC. Ehi, Luca, che cosa può essere quando ti si spegne il video del televisore e continua a sentirsi la voce? Forse è impegnato. E già, tutto e niente può essere. Ma il televisore LCD sempre, no? Sì, sì, LG. Praticamente... poi lo spegni, non lasci appena, ma non più di tanto, il tanto di spegnere, di riaccenderlo e poi si riprende. I LED stanno partendo già. I LED? Io, a LED, sì. Penso di sì, è quell'ultra piatto. È vero, ha ragione Luca, c'è qualche LED che è partito, buonasera. Ah, ciao Giulio, cosa sta facendo? Poi lo spegni e si riprende quando lo riaccendi. Quelli sono diodi, ciao Giulio. Ciao Luca, sì, hai ragione, è proprio così. Confermo al 100%. Lo apri e cambi il diodo, che è il LED praticamente, e tutto ritorna normale, non c'è problema. Però va a Luca, ma Luca già lo sa. Sì, se no si compra nuovo e buonanotte, tanto quello lì non c'ha il sistema nuovo. Devo comprare decoder, tutto quanto. Gira che ci dirigiamo, ma lo compro nuovo col decoder incorporato. E faccio 13. E quello c'ha già un po' di anni. Vabbè, è nuovo, lo so. Ma ancora per due anni ancora non servirebbe il nuovo, visto considerato che qua dovrebbe arrivare fra 2 anni con il nuovo sistema TV. Vabbè, dai, comunque, però è sempre un peccato, visto considerato che è una riparazione che si può fare in maniera abbastanza facile, lo fai fare a Luca e ce l'hai ancora, fin quando ti fa comodo. Già, quanti pollici è? 17, penso. 17 pollici, ma piccolino. Quello che c'è in cucina, non l'hai vista? Ho capito, no, sarà un 22 quello, buoni. Vabbè, quello lì. Vabbè, ti dico anche come l'avevo preso, avevo fatto i punti della AES. L'avevo preso con i punti. Ho capito. Già. E i LED sono? Qualche LED che sta andando male. Vai, non va, è quasi morto. Non so, vabbè, finché va, come tu Giulio, usatelo. Infatti, se puoi partire del tutto te lo faccio vedere, perché lo sai cosa ha fatto due volte, l'ho spento, poi l'ho riacceso e si riprende subito, avanti giù, sto scendendo. Figa, scusa un attimo, mi è arrivato un amico, mi deve portare una cosa, devo scendere giù, un attimo, arrivo subito. Chi c'è, anche Giulio? Eia, ma non risponde, l'ho chiamato. Eia, qua è quasi fatto, io a quando raffreddare però. Comunque io sono rinato e da quando c'è fresco sono veramente rinato. Prima non potevo uscire di casa col caldo, non... era una cosa deleteria per il mio fisico. E stamattina c'era freddo e a maniche corte c'era freddo. Sono uscito, ho fatto la cazzata col cane a maniche corte e ho patito il freddo. Giulio, sei l'ascolto? Sì, sono d'ascolto, sono qua, sì. Sì. No, siccome stavo parlando anche al telefono, sto facendo due contatti, uno con voi e uno al telefono. Va bene, dai. E beh, cosa decidi già? Non te lo ripari? Sì, ma se lo fa altre volte sì, lo riparo sì, ma se lo fa altre volte, l'ha fatto due volte, non è che lo sta sempre facendo, l'ha fatto due volte, io stavo pensando invece che era il caldo, che magari aveva sciolto qualche saldatura, perché me l'aveva fatta anche in un altro televisore questa cosa, poi è venuto il tecnico, ha rifatto tutte le saldature e non mi ha più fatto problemi, ha detto che il caldo le asciuga. No, quando è a legna, sai com'è, ti spiego come già, e il quadro quando tu apri tutto attorno, lungo tutto il perimetro del quadro, c'è una serie di LED che in realtà sono dei diodi, sono, no? Quando se ne brucia uno non accendono nemmeno gli altri e allora ecco che il quadro rimane spento, anche se magari può anche esserci la voce, comunque una riparazione abbastanza semplice e penso anche poco costosa. Va bene, ma se tu ti rivolgi a Luca, Luca queste cose già se le sa fare. Sì, già lo so. Adesso vediamo, se lo fa di nuovo glielo porto. Solo che resta la televisione in cucina per me, perché quando mangio mi guardo il telegiornale, capito? Solo metodico. Vorrei vedere, che capita a questo punto. Cosa fai? Da mai delle gattonate matte durante la sera? È chiaro che devi guardare il telegiornale e le trasmissioni interessanti per da adulti, dai, diciamo, le trasmissioni adatte per gli adulti, sicuramente così. Ma io lo stesso, qua, figurati, adesso quando cambieranno il sistema, non lo so quante televisioni dovrò cambiare, perché io ne ho 5, tutti quanti piazzati qua, e ne ho uno nella sala, due nella mia camera da letto, uno mio e uno di mia moglie, uno in camera di mia figlia, uno nella tavernetta, uno nella mansarda, dopo ne ho un altro conservato, quello ancora, quello lì è quello antico, a tubo cattolico, quello lì, ed è 17-18 pollici, una cosa del genere, però funziona, ha dei colori bellissimi, l'ho preso, l'ho messo dentro uno scatolone e adesso sarò almeno un anno che non ho più acceso, perché per curiosità avevo provato se funzionava ancora, e funziona alla grande, che poi tra l'altro anche il coso, come si chiama, il decodificatore adatto proprio per le, perché quello lì era senza il discorso di allora, capito? Sì, ma non c'è bisogno di cambiarli o giù, basta che tu li compri il decoder che si adegua a questo tipo di questa nuova cosa che stanno facendo. E basta, tutto lì, lo metti esternamente, però deve essere, non so da che anno parte, perché se l'ha preso questo amico mio e me l'ha detto, che lui l'ha dovuto cambiare perché quello suo non era adattabile il decoder, perché non so da che anno è che non è più adattabile, se per dire l'hai preso dopo quell'anno lì, allora sì, ci può mettere. Sì, sì, è vero, io infatti ne ho uno, che poi tra l'altro c'è quello lì in tavernetta, quello lì è abbastanza vecchio nel senso di parecchi anni, se no come televisore nuovo funziona sempre molto bene, però quello lì anche col decodificatore non dovrebbe funzionare più, perché non è appunto costruito di recente, anche perché è un televisore che avrà una decina d'anni tranquillamente, forse anche 12, per cui però funziona sempre molto bene, sino a questo momento. Vuol dire, vedremo quando sarà il momento cosa si dovrà fare, o compro il decodificatore oppure devo cambiare, e lui se vuoi vedere la televisione devi spendere, è tutto lì. Vai Marco. Ehi a Giulio, sì, devi valutare, praticamente se i televisori sono validi, se ti piace l'immagine, la brillantezza, che ne so, anche la definizione, se ti trovi bene, ancora funzionano bene, potresti prendere decoder, ma se hai l'idea di migliorarlo, che ne so, per vedere meglio le partite, vuoi uno schermo più grande, un'immagine più brillante, allora girati come ne sostituirli, dipende. Io ti dirò, non sono un fanatico dell'alta definizione, pensa che io ce l'ho. Non ridette, oppure ridette, c'è ancora un Grundig 32 pollici che era i primi a cristalli liquidi, cioè non LCD, cristalli liquidi, ed è bello profondo, non è di quelli ultrapiatti. Però sai cosa di bello? Che a parte l'HDMI ha gli ingressi Super VHS per la telecamera, gli ingressi audio-video, quelli RCA, ha le prese SCART, perché io ancora ho videoregistratori, tre videoregistratori a cassette VHS, ho collezioni varie di film e ogni tanto me li guardo attraverso quello. Invece nei nuovi televisori ho visto cose brutte, cioè hanno solo le prese HDMI, non hanno più prese audio-video, non hanno più prese SCART, giustamente perché è una cosa anacronistica, però mi dispiacerebbe un futuro buttarci tre videoregistratori a cassette, che poi li uso per leggere, mi Giulio. Avevo sentito parlare di scatolette elettroniche per adattare l'uscita da SCART o audio video a HDMI. Naturalmente è un volgare adattamento, quindi l'immagine peggiorerà comunque, però ti permette comunque almeno di guardare le centinaia di videocassette che abbiamo qua in biblioteca, negli scaffali qua. Vai Giulio. Sì, ma se per quello io già ho le apparecchiature adatte proprio sia per le cassette che anche per i CD, no? non è quello un problema. Però il televisore, ad esempio quello che ho nella sala, è un 44 pollici, quello è abbastanza grande, dove guardo le partite. Poi c'è anche il sistema sport, anche, no? Per vedere lo sport tu lo programmi su quel sistema lì e la partita la vedi, è proprio una meraviglia, un'immagine è proprio bella, perfetta, proprio a tutto campo, di lusso veramente. Gli altri, ne poi ne ho un altro da 38 pollici, un altro ne ho altri due da 28, quello che ho nel canale è da 28, sia quello mio dalla parte mia e uno dalla parte di mia moglie, perché guardiamo sempre programmi differenti, anche perché io guardo soprattutto sport, invece mia moglie da Maria De Filippi e compagnia cantante, sai, questi programmi da donne, tutte e due con le cuffie, in modo che non ci disturbiamo a vicenda, per cui va bene così. E mia figlia lo stesso, ha sempre un 28 nella sua camera, nella sua cameretta, e guarda quello. Poi invece quello che c'è in massada non lo guarda, no, non lo accendiamo mai, non ci sale mai nessuno, ci salgo io qualche volta così, e di tanto in tanto mia moglie, di tanto in tanto, sempre per fare pulizia, spolverare, eccetera, se no non ci sale mai nessuno lì. E poi tra l'altro, ripeto, questo a tubo cattolico, quello lì è 17-18 pollici, dentro uno scatolone di cartone, l'ho messo e l'ho sistemato da una parte, ma funziona benissimo. Mi dispiace buttarlo, perché devi buttare un'apparecchiatura se non funziona? Ad esempio, come nel tuo caso, se ti fa tutte queste funzioni, cassette e compagnia cantante, per quale motivo devi buttare? Solo perché è antico? Se funziona, funziona, basta, che te ne frega se è antico. Cosa siamo? Nell'era del consumismo così? Io sono anche del parere che le apparecchiature di un certo rilievo bisogna anche tenersele, no? Io Giulio ho anche il videoregistratore VHS e a fianco c'è il Blu-ray, praticamente DVD, MP3, puoi sentire, tutto qua. E ce l'ho collegato proprio a quel televisore lì, perché quello nuovo che ho non c'ha la presa SCART, come ha detto Marco. Lo so, non c'ha la presa SCART, purtroppo quello comincia ad essere un problema. Però c'è sempre una possibilità, vabbè, tu non ce l'hai, se tu avessi avuto la parabola, con la parabola puoi sempre sintonizzarti, anche se non c'è la presa SCART, perché ci deve stabilire un canale master, che poi quello sarà solo esclusivamente canale master, e con quella possibilità ti fai tutti gli altri canali, non ci sarebbe questo problema. Però ci vuole la parabola satellitare, e se non ce l'hai non ce ne sta a fare. Vai già. No, io non ne ho mai messo, anche perché non sono partito di televisori io guardo documentari, a me mi mi lasciano a bocca aperta certi documentari, non so se li guardi mai su canale 5, dopo che finisce il telegiornale eccetera eccetera, danno quei documentari sul mare, poi guarda, io impazzisco, mi piacciono tantissimo, guardo quei documentari lì e poi telegiornali, qualche programma tipo lo show di record, tutti questi programmi qua li guardo. E ho meno pazienza a guardare i film adesso, perché mi sdraio nel divano e poi mi addormento, non ce la faccio a guardare un film intero. Lo so, anche perché questi film che danno sono sempre ripetitivi, non è possibile, danno sempre gli stessi film. Per esempio io sono un patito dei film western, capita, a proposito stanotte ce n'è sicuramente uno di film western, domani ce ne sarà un altro sul canale 22, oggi è su canale 24 perché oggi è lunedì, non solo quello, è finito uno, subito a seguire ce n'è anche un altro, sicché tutto il programma della notte fino a ora tarda, anche l'una e mezzo e anche di più, alle volte ci sono film western, però logicamente non tutti ce la faccio seguire, magari seguo il primo, poi cambio, guardo il canale dello sport dopo 24 oppure Sport Italia, insomma io giro, la verità non è che sono anch'io lì sempre fisso in un canale, sai, poi quando hai il telecomando a portata di mano ti viene spontaneo stare sempre schiacciando come i bambini già riprendi e fai girare pure. Perché ce l'hanno fatto il giochino per giocare, prima bisogna avanzarsi dal divano, non veniva tanto bene a giocare. Allora siamo Mandroni, avanti Marco. Tra una stanza e l'altra ho sentito parlare di tubo catodico. Noi avevamo un Seleco ancora funzionante dall'86, poi un Mivar 28 pollici sempre perfettamente funzionante, però siccome avevamo già questi che sono già vecchiotti a cristalli liquidi li abbiamo buttati, portati all'auto, come si chiama, all'autoparco lì, centro ecologico, vabbè, quello vicino alla questura, e gli abbiamo detto guardi c'è anche il telecomando, funziona perfettamente, naturalmente li devi mettere il decoder, il digitale, però troppo ingombranti, poi pesantissimi da portare, ma per carità. E insomma ci siamo levati di mezzo un po' di roba, ogni tanto qua facciamo dei pulissimi, cominciamo a buttare roba. Sicuramente senza volerlo c'era passato il famoso accordatore Rosmetro, quello buono. Io l'altro giorno ho fatto pulizia degli armadi, ma bila d'usci, ho cominciato a buttarci magliette, calze, un sacco di roba ci buttato. Poi sono andato a Cisola, ma mangio bila d'usci. Tanto era roba che ci avevo già un po' di tempo, anche se non era messa male, ma oramai era obsoleta. Già, pensa che io ho ancora il chiodo di quando guidavo la moto, forse è ancora quello di quando andavo a scuola, in pelle, bello pesante, bello massiccio, però è un po' fuori moda. E poi se non è la moto, cosa di buono il chiodo? Un po' così, dai. Io invece ho proprio il giubbotto, quello che si usa in moto, con due cerniere, non ti passa un filo di vento, né acqua, né nulla. C'ha i paragomiti e il paraschiena. Se poi li vuoi togliere, li puoi anche togliere, però si vede che è un giubbotto da moto, capito? È bello lì, caspita, quello lì è veramente bello, infatti lo stavo vendendo, è nuovo. Quando ho venduto la moto non gliel'ho dato. Quello l'avevo comprato a parte, l'avevo pagato 300 e passa euro. Non trovo qualcuno da vendere, lo vedo 150 euro, me lo vendo. Lo devo mettere sull'occasione. Tanto è sempre fermo nell'armadio, mi occupa solo spazio perché non lo sto usando. E che cos'è? Bell Stuff Dainese, cos'è? Della Dainese. Ehi, no, conoscevo anche questa marca, Bell Stuff, diciamo che sono sportivi ma più eleganti come giacconi, no? Certi si possono mettere anche al di fuori del campo dell'uso della moto, dai, diciamo. Eia, e Giulio, ai tempi della Lambretta, che abbigliamento usavate in moto? Cosa si mette? Quello che c'era ci si metteva addosso? Oppure giacche particolari? Non lo so, i tuoi gusti quali erano? E Giulio deve saltare fuori i pantaloni di jeans, di bunia e un paio, un golfo e una camicia, cosa si metteva? Non ce n'era abbigliamento particolare per andare sulla Vespa e sulla Lambretta. Io poi l'ho comprato il giubbotto anche perché viaggiavo d'inverno, lavoro con la moto che risparmiavo un mese e quindi non li usavo di macchina, usavo la moto. Quindi abbiamo comprato guanti, io ho i guanti, ma forse non è dainese, dainese ce l'avevo quello, il chiodo in pelle, questa è un'altra marca, aspetta che guardi. Luca, Luca, ancora mettendo a posto? Non fai a fare colazione. Mi sta giusto raffreddando, Gianfra. Sta raffreddando, via. Bene, bene, bene sentito. Scusate, sono al telefono. Ciao Gianfra, ben entrato, riprendo fra un po'. Poi Gianfra. Ciao Giulio, ciao Gianni. Quando sulla Vespa, canottiera, con tutti i peli fuori e cartoncini. Eia, in estate magari, ma in inverno una giacca ci vuole, dai. Eia. Bene, bene, bene. Anzi, forse decenni fa si usava più la pelle, non c'erano tutti questi giubbotti sintetici di adesso, la pelle forse andava per la maggiore. Oh Gianfra, quell'apparato, quello che mira tutto, va benissimo, solo che l'ho dovuto cambiare il cavo perché era tutto magnolato, era, sicuramente si è seccato. Ne avevo uno della Midland, uguale, però con diverso attacco. È stato sostituito l'attacco ed è perfetto. Beh, credo, roba come si dice, che non va bene, non le do, ce l'ha molto direttamente. Però c'ho difficoltà ad ascoltarti, sei troppo accatto. Sono troppo amplificato. No, troppo ripetuto, dalle pause, sì, sente. Oggi dopo l'impiatto mi fa mal di gabba. Guarda invece Marco c'ha una radio formidabile, proprio hi-fi. Quello ce l'ha anch'io formidabile, come dici tu. Peccato che non sia stereo il microfono del baracchino. Buonasera. Buonasera, Bombolo, tu sei? Papà. Buonasera Gianni, buonasera anche a te. Eia, in compagnia di Gianni e di Gianfranco. E beh, come si sta in terra straniera, Antonio? Benissimo. Meglio di là? Là era manicomio. No. Qua sono a conto mio. Ah, diciamo sei più indipendente, dai, Eia. Va bene, io sono costretto a lasciarvi che adesso devo affondare le fauci nel cibo. Le rilancio Gianfranco e rimango in ascolto. Ciao a tutti, da Gianfranco. Sì, ciao Antonio, buona serata. Marco, non ti ingozzare troppo, sono dormi. Riprendi Gianni. Eia, saluta Antonio, saluta anche Marco che sta andando via, buona carica. E siamo qua, ricordati che ci siamo. Certo, vieni avanti, poi Gianfra mi dici se questa radio ti piace. Cappa, Gianni, stavo dicendo, capo, mi stavano problemi questo apparecchio, l'ho riparato, me l'ha riparato una persona, adesso va bene. E che problemi ti stava là? Non si vuole importante. Ed era l'apparecchio, non il microfono. No, era proprio l'attacco del microfono, era. Ah, cappa. E questo com'è, Shantou? Una bomba, già. Questo è Superstar 3009. Gianfra, come va questo? Se non c'è ecco va bene, a prescindere, anche se dovesse andare male ti dico che va bene, l'importante è non c'abbi l'ecco. Ma no, cosa c'entra? Io ti sto chiedendo come va, non è che mi devi dare il contentino, se secondo te va male mi devi dire va male. Non ti sto chiedendo di darmi il contentino, sto facendo una prova. Ma non lo so apparecchio già. Già va bene, già va bene. No, molto meno fastidio dell'altro. E allora posso dire a tutti. Adesso c'avevo il Magnum, poi ho usato il 3009, poi sto scendendo e prendo il Cobra fra un po'. No, piuttosto che lo faccio andando fuori quello a fare, va bene, sì, anche se non è potentissimo. Ricordati che è steso, premendo un tasto, poi si passa anche sugli altri canali. No, non ti ho capito, Gianfranco, con me stai parlando? Sì, ho detto che come tutti da prati oramai, anche quello è multistandard, quindi non mi ricordo la sequenza, però può cambiare banda anche. Anche se poi, vabbè, puoi ascoltare l'FM, ma se vai su ad esempio è tutto SSB. Fuori come va quando sei un po' distante, va bene, sì? Sì, sì, sì. Va bene, l'ho provato, ma mi mette delle lettere, D, F, che cosa sono quelli? Le bande, quelle sono le bande, capito? Sono le altre bande, perché quello, cioè adesso non me lo ricordo, però dovrebbe andare da 26 a 30 o giù di lì. Se cambia lo standard, capito? Pur essendo omologato, però facendo quella sequenza fa quello lì. Perché io sempre sul 10, stavo parlando, ho continuato a parlare, però secondo come lo metti va D, F, eccetera, eccetera. Vabbè, buono, interessante che vada, a me non mi interessano bande alte e cose, mi interessa solo avere i 40 canali, tanto per farmi quattro chiacchiere in macchina, solo che non riesco a trovare già fra un'antenna come si deve. Ne ho già preso due, una sono riuscito a regolare le stazionarie, ma l'altra che ne aveva due addirittura, le stazionarie nuove, poi ho preso un'altra con la magnetica già predisposta, sempre della LEM, che riusciva con due di stazionarie, l'ho abbassata a 1,5, ma di più non ci sono riuscito. Guarda che forse il capo può essere sbagliato, o non fa massa bene. No, no, Antu, non è il capo, io ne ho regolato tante di antenne, di stazionari e cose, ma questa qua è quasi impossibile, cioè impossibile, perché ho provato anche a tagliare i pezzettini d'antenna, ma piccoli piccoli per provare, me l'ha passata a 1,1, mi poso in macchina, adora 1,5, boh, non si capisce, ho allargato il filo, ne ho fatto mille di prove. Antenna o qualche cosa. Dimmi. Non è che hai provato a misurare le stazionarie tipo a portiera aperta, poi quando le chiuse. Io le misuro a portiere chiuse, anche se sto sempre toccando lo stube di trattura. La chiudo sempre. Vabbè, può influire un po'. Sì, a portiera aperta l'ho fatto. E poi mi sedevo sempre con la portiera aperta e magari salivano. Come muovevi un po' lo strumento salivano, capito? Ah, però la portiera era aperta, sempre. Sai cos'è, anche la mia, io avrei voluto che risuonasse centrobanda sul 40. Invece lì il centrobanda ce l'ha sul canale 1. Quindi c'è un 1,15 sul 40. Uno sta uno, non si muove proprio sull'1 e sicuramente ci avrò un 1,15 o un 1,2 sul 40 sotto, che tanto non, quello è 40 canali, quindi non mi serve. Tutto lì, dai, vai, riprendete, sono in ascolto, ciao. Vabbè, già mi va bene, dai, dammi quella lì. L'hanno alzata di prezzo, io quando l'ho presa nel 2010 da GBC, sì, costava, potrebbe essere tipo 35, antenna più base magnetica, no? Viene chiamato kit 007, però i prezzi adesso online sono lievitati parecchio, anche 20 euro in più, figurati quanto costerà da GBC, è meglio non saperlo, guarda. Due modelli sono, una nera che è piccolina e un'altra lunga come la tua, però non c'è base magnetica, è senza base, ho visto quelle lì. Allora, della Midland, proprio di quella marca, oh, la ML145, no, quindi un metro e mezzo circa, e va discretamente. Poi avevo preso quella, ha una sigla indicibile, corta corta, mi pare 66 centimetri, dice funziona, però c'hai 2 sull'1, 2 sul 40 e 1 e 1 né 2 sul 20, ma sono troppo strette di banda quelle super caricate, capito? Troppo strette. Ah, ricordate il nome, Midland 18/244, quella da 66 centimetri, 18/244, non vale nemmeno quello che costa. Vai Gianfranco. No, io mi volevo invece procurare un Midland che mi serve per caricare il telefono. Cioè? I nuovi Midland, hanno la presa USB che ti dà i 5 volt canonici, 2 ampere. Lo provo a prendere per caricarmi il telefonino con USB, capito? Così almeno non sto lì a attaccare spinottini. No, ma stai dicendo tipo qualcosa per mettere nella macchina, che mette molto anche la macchina, quello stai dicendo? No, un baracchino M10, non so se lo conoscete, se è M10, poi con la sedia lì, hanno tutte le prese USB, no? Da 2 ampere 5 volt. E quello è ottimo per caricare i telefonini. Quindi lo metto qua in stazione e quando sono in stazione lo accendo, lo tengo a volume 0 e mi sfrutto USB. È vero, non l'ho mai visto la verità, questo è nuovo. È tutta una serie che hanno fatto. Quindi a posto di avere questi affarini piccoli da accendisigari in giro, questi da collegare alle prese elettriche che te lo dimentichi, almeno quando spegni la stazione spegni anche il baracchino. Certo, per essere un caricabatteria è un po' caro, perché costano, vanno dai 60 anche ai 220 euro, dipende dal tipo del prodotto della Midland, capito? Però insomma alcuni ne hanno anche due, quindi ti carichi due cellulari. Cappa, adesso ho capito. Prendete voi che io vado a fare da mangiare. Vi ascolto, dai, ce la risentiamo, cappa. Tanto riferisci. Sì, da domani riprendo a tempo pieno da domani. Maria Momorino! Yeah. E lui? Cappa, anicotta, anche lui. Ehi, va benissimo, va. Sto diventando Gianni il re dei connettori dei microfoni, a sistemare i connettori dei microfoni. Vabbè dai, che colpisco il tuo computer, riprendi già. Eia, KK, altro. Felicità di Gianfranco, quello c'ha letto. Dai, ce la risentiamo più tardi se coincide. Dai, io vado a farla mangiare. Tutti morti? No, io stavo portando un caricabatteria che era in mezzo ai piedi, siccome sono tanti, e questo me lo sono sistemato, ne ho 3 batterie, quindi dovrebbe andare bene, devo fare un ordine qua, tanto parlanti, cosa, in mezzo ai piedi. Eia, hai notato Gianfra come stiano mettendo di serie l'eco su tutti questi apparecchi CB che vanno di moda adesso, almeno quelli ammiragli, no? Come i CRT, quella roba lì, no? Che poi in origine nascono come apparecchi per i 10 metri, no? E mettono anche l'eco come funzione, come se uno in 10 metri dovesse mettere l'eco. E sono sbarcati anche su apparecchi tipo President McKinley, sui President me. Cioè, quello che voglio dire, come se fosse una funzione essenziale, come può essere lo squelch, che ne so, l'autoascolto. E l'eco è l'ultima delle cose che dovrebbe avere un baracchino. Break, secondo voi, avanti break. Buonasera a tutti, 7351 Nicola Lupo Grigio, parramobile, piazza Le Segni, come vi ricevete cambio? Santiago 9, radio 5, Lupo Grigio, ben sentito, avanti break. Buonasera a tutti, buonasera Giannangelo e a Lupo Grigio, forte e chiaro, Santiago 910, radio 5. Sei Riccardino, interrogativo? Positivo, sono io. Perfetto, io sto modulando con una mini turbo, cambio. Bene, bene, forte e chiaro, Giannangelo. Giannangelo. Cosa eri? In vacanza? No, ho appena finito le ferie. Ah, perché non... Ah, boh, non c'è bene. Estate, dovremmo andare, siete in due. Vabbè. Se ci siamo in tre, ci arrivano. Se nessuno ci sarà. Sì, ho capito, E niente, Lupo Grigio, stiamo durando piazza Le Segni? Ti conferma in barra mobile con una mini turbo LEM, cambio. Positivo, non ti avevo mai ascoltato così. Ma c'è qualcuno che manda la portante? No, io non ho sentito nessuno. Gianfranco, come la metti a Lupo Grigio? C'è una portante ogni tanto, non ho capito, ripeti Gianni. Ho detto, non sento Lupo Grigio. È negativo, quando parli ti metti la portante. Comunque ciao Nicola, ben ascoltato, anche io ti sento abbastanza bene, ciao anche Riccardo, buona serata. Niente, vediamo un po', riprova Gianni, rimanda il messaggio. Sento per me. Sento come senti a Lupo Grigio. Sì, lo sento, da piazza Le Segni, lo sento bene. Vabbè, dai, anche io passo in bianco, volevo dire. Ci sentiamo più tardi eventualmente, dai. Riprendete pure, ciao Nicola ancora, ciao Riccardino. Buona serata a tutti, ciao anche a tutti gli altri che c'erano sul canale. Ah, già fra, ci sentiamo, dai. Ma c'è Giulio, per caso? Lupo Grigio, perché non mi ha avvisato che andavi lì? Brutta caronietta. No, allora, è stato una cosa così all'improvviso, ma io la cosa che volevo fare, le prove che volevo fare, erano per adesso prove di collegamento, capito? Ma è facile come antenne, così abbiamo provato tutte le antenne, capito? Allora, guarda Gianni, probabilmente o hai il microfono o insomma arrivi spezzettato, cambio. Arrivo spezzettato io? Ti confermo, arrivi spezzettato, infatti sei un po' incomprensibile, cambio. Perché sta mettendo la portante, non impare da me, quando parlo metto la portante. No, negativo Gianni, guarda, prova non so a cambiare microfono, non lo so, ma arrivi proprio spezzettato, cambio. Riccardino. 9 più 25 la portante, pochissimi segnali erano così forti, ce l'hai molto vicino, Lupo Grigio. Non ho capito, ripeti. È vicino a te. Qua manca arriva la portante. Lupo Grigio, guarda quando ti arriva a te la portante, così capiamo chi è. Io non ho lo strumentino per poter capire. Comunque volevo dirti Gianni che la prima prova che volevo fare io era prova di collegamento, se da piazza Le Segni riuscivo a farmi copiare da qualcuno, cambio. Certo che ti copiano, con l'antenna ti copiano. Sì che ti copio Nicola, già ti copio adesso, Santiago 7, va bene così. Buonasera a tutti. Buonasera, sono tornato. Salute e vita. Quanto ti arriva la portante Marco a te? 9 più 25. Pochissimi arrivano così forte qua. E a te quanto ti arriva? È abbastanza rotto qua. Fate, dai, continuo a fare quello che sto facendo. Lupo Grigio, Santiago 9 arrivi qua da me in campagna, Santiago 9. Sono molto soddisfatto, questo ringraziando un amico che mi ha procurato l'antenna, cambio. Vabbè, adesso puoi mettere la macchina sopra il tetto e esci bene. Brecche. Va bene, ciao Gianni, ciao Marco, ciao Giulio, ciao Luca. Ti devo telefonare che ho un problema al PC, però adesso non posso perché devo fare una cosa urgentissima che c'ho gente. Ci sentiamo semmai dopo, eh. Un saluto circolare a tutti, ok? C'è stato me che non mi avete fatto entrare. Perché a me non mi interessa farti entrare, cosa... già ti vedo tutti i giorni, devo fare anche entrare. Vabbè, ben rientrati tutti, eh. Buon divertimento, QRT per me. Io quando c'è troppa gente non riesco a modulare, mi dà fastidio. Ciao Robert, riprendi, buonasera a tutti. Ciao, però non ho fatto ascolto, ho acceso un secondino, perché stavo per uscire, te sapere se c'è qualcuno, ho visto dei segnali molto potenti. Ok, chi c'è? Vabbè, avanti, chi tocca? Scusate, Flavio, vi affilo un attimino. Come? Ti sto chiamando? Chiamami che sto uscendo, dai, che c'ho una commissione urgente da fare. Il cambio per Gianni, mi pare. Comunque qua Gianni non ti passa la portante, forse la Marco è un po' più aperto, ma qua non ti passa. Riprendi tu e fai girare il QRT per me. Ciao Flavio, ci sentiamo con QRT. Avanti Marco, dai. Lupo Grigio, se ti trattieni mi faccio una scappata. Io saluto Roberto. All'anima Robè. Un mese e mezzo di ferie, due mesi, quant'è? Avete parlato in due comunque. Robè, dicevo, all'anima delle ferie, due mesi che non ti sento. Vabbè, diciamo c'è caldo pure qua dentro, poi c'hanno degli amici, tutte le sere stavo scendendo giù da questi amici di Genova, poi mi ho preso 15 giorni di ferie io, non è solo ferie, a parte che non è che siano andate bene più di tanto quest'anno le ferie. Comunque ciao Marco, ciao Gianni, il Claudio ha salutato, Lupo Grigio sta arrivando a bomba 9P50, non ho capito cosa gli è successo, Claudio lo stesso 9P50, tutti forti siete, chi c'è oltre a voi? Ciao Roberto, ben ascoltato. Ciao Riccardino, poi sentito anche a te, Gianfranco non l'ho sentito, comunque lo saluto anche adesso, poi chi c'è? Me ne dimentico qualcuno. Sento Roberto. Chi c'è? Antonio sono. Antonio, anche tu stai andando bene, 9 più 10, dai, tutti oltre 9 7 di segnale, qualcuno abbondante, molto di più di 9. Ma non sono più a Terolce. Dove sei? A casa mia adesso, zona Corso Piccolo, la zona lì, c'ero sul tetto l'antenna. Quindi sei vicino a cosa? A Rubrofretta? Scappa che sì. Scusate un attimino, mi hanno chiamato, scusa. Sì, ti ho sentito e volevo il controllo pure da te, dai. Gianni, stiamo chiamando. E chi è che chiama? Io chiamavo Gianni, se c'è. Scappa, bravo, adesso è qua, Gianni! Antonio Bombo da questa parte. Antonio è un po' confusa per via dell'eco, la modulazione. E adesso, e ora l'ho tolta. E adesso è un bisou, cioè, sono tornato e mi ero allontanato di stanza. Scusate, non ho salutato né Riccardo né Lupo Grigio. Salutone Riccardo, se mi sente salutone a te Lupo Grigio. Saluti anche a te. Io vi saluto a tutti, buonasera a tutti, non ho avuto il tempo, l'opportunità di salutare a tutti che in una frazione di secondo non mi ero accorto che eravate, che eravamo in così distanti. Comunque un saluto a Marco, mi sta uscendo la testa di nomi. Ma mi saluti. Luca. Lo sai che io non ricordo niente, come faccio a 80 anni? Ehi cavolo, quando ho 80 anni, non ti ricordi di me, boh? Quello là, Luca. Quello là, Luca, Non sono quello là, Riccardino, no, quello là, Luca. Guardi, quando ti arrivo a casa tua. Che mi senti, sì? No, ti sento basso, Santiago, meno 9, radio 0. Cagliari 1, Renato 0, così è. Positivo, così. Io come ti arrivo lì, in quella zona, Riccardino? Santiago 7, radio 5. Vabbè, sono normale, dai. Hai sempre la storma? Sì, sempre quella, Figurati se metti una 5 ottavi, ciu. Vabbè, tu sei a fondo scala qui, lascia perdere. Sono soliti 3 watt, quel filtro mi ruba un watt, circa. Chi ci è rimasto, Roberto? Sì, ma in linea d'aria siamo lì, dai, siamo vicini. E io come arrivo? Buonasera a tutti. Mi è entrato, adesso lo sta bloccando tutto, devo abbassare il volume. 9 più 20, chi è che non l'ho riconosciuto? Tonino Kawasaki da questa parte. 9 più 20, sì sì, il segnale è buono, la modulazione era, vabbè, è effetto stanza, diciamo, dai. Non ha importanza la modulazione, Bob. È proprio la modulazione che ha importanza, non tanto il segnale. Anche lo Smitter vuole la sua parte, Tonini. Ammazza, va così. Buonasera, Kawasaki. Ciao Riccardino, dopo tanto. Dopo tanto, lo sai, ero in ferie. Sei troppo forte, ho dovuto abbassare il volume. Sei 9.35, 9.40, radio Super 5. Kawasaki da Lupo Grigio. Ciao Lupo Grigio. Insomma, chi c'è in ruota? Dunque, il Claudio si è affacciato, c'era Roberto, Doppio Rum, Riccardo, Bombolo, Lupo Grigio, ho già detto, boh, sì, più o meno, dai. E questo Bombolo chi è? Avanti Bombolo, come mi senti? E io, a me non mi conti Marco, sei qua qua, ma ne? Mi sento, beh, adesso ve lo faccio vedere io, vedi. Scusami Lu, ma tu stai andando e venendo tra una riparazione e l'altra, dai. Sì, sono qua, adesso mi assento un'altra volta, ma se non sbaglio forse ho sentito Massimiliano Bulldozer, gli ha fatto il break prima. Oh, forse era Tonino, sai quando è entrato Bulldozer? È entrato nel primo pomeriggio, mi ha dato un controllo sul 10. Ciao Lu. Ciao Cavalzar, no, poco fa, mi è sembrato lui, riprendi Robert, ci sei, mi senti? Roberto Quadrato. Dice che era al telefono, era. Ora. Luia, ma che ce n'è? Oh, Bombolo. Avanti. Che zona sei? In zona Corso Vicco sono. Ah, allora già ti arrivo bene, dai. Scappa, come ti arrivo lì a San Camillo? Prova a fare passaggio. 2-3, prova radio. 9-20, radio 5. E pensa che sta usando un carico fittizio come antenna, la Thunder, quella da un metro, la bazooka sarebbe. Immagina se mette la 5 ottavi, bubu. Io sto usando il ferretto che c'è nella bolletta. Vabbè che rei energy, siamo lì. La quella che fa l'assidio, la Storm 27, quella che fa la Midland. Sì, Anto, la fa sia l'assidio che la Midland, identica. Però sul tetto va, vedi, il problema è quello, se la metti in mezzo ai palazzi non vai da nessuna parte, ma se la metti sul tetto del palazzo, bene o male ti sentono in città, è buono quello. E io dai che devo finire di mangiare, riprendete voi. Chi giovane a tutti gli urichi, mi sono mangiato una teglia di, come si chiama, lasagna al forno, ci ho messo anche la faccia in mezzo, come maiali. Minimo tu dovresti pesare 150 kg. No, sarò 70, no, forse 75. La verità, non mi sono pesato perché la bilancia elettronica si è rovinata. Credo di averla sfondata. Marco lì, se pesi così poco, vuol dire che c'è il bello solitario e tutta la famiglia di vermi. No, no, guarda, dovresti essere, che ricordi, 70 e fruscia.